Salve amici di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 28 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e la ricetta di oggi è budino al limone con cioccolato fuso. Ingredienti per 8-10 persone: 4 limoni, 250 g di zucchero, 8 uova, 20 g di amido di mais. Per guarnire, 250 g di cioccolato fondente. Per gli stampini, burro e zucchero semolato. Preparazione: spremere i limoni e tenere da parte il succo. Rompere le uova in una ciotola, unire lo zucchero e lavorare con il mixer fino ad ottenere un composto spumoso. Quindi unire l'amido di mais e il succo di limone. Amalgamare nuovamente. Imburrare l'interno degli stampini e poi rivestirli di zucchero. Distribuire il composto negli stampini e poi cuocere a bagnomaria. Prendere un'ampia teglia, riempirla di acqua calda e immergervi gli stampini. Trasferire in forno preriscaldato a 160 gradi. Lasciar cuocere per circa 80 minuti. Nel frattempo, fondere a bagnomaria il cioccolato fondente. Sfornate gli stampini, capovolgeteli uno su ogni piatto e decorare con cioccolato fuso. Buon appetito! Il vino consigliato di oggi è Friulano Schioppetto, servito a 10 gradi. Questa era la puntata numero 28 di A Tavola con Fabiola di Radio Big World. Io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buone vacanze!